Vorrei spiegare agli ascoltatori cosa è successo ieri. Ieri si parlava in un intervento del fatto che io ho perso ancora, cioè l'olfatto. Non ho ancora l'olfatto e il gusto. E alcuni ascoltatori hanno scritto tipo: ma smettetela con sta storia, il Covid non esiste, è tutta una macchinazione. E sono arrivati una serie di messaggi. Io ho detto alla fine della puntata: possiamo chiamare questi stronzi? Io voglio sentire qual è la loro teoria. Ovviamente il 99% se l'è conigliata. Certo. Tranne uno che ha risposto al telefono, tra l'altro padre di 3 figli, quattro figli, cioè non è neanche uno di primo pelo, quindi uno che avrà più o meno la nostra età. Vabbè, però onore a lui che ha avuto il coraggio. Sì, sì, no, lui ha discusso le sue idee, per io ripeto sterco. io posso accettare e posso anche condividere tutte le teorie del mondo, però negare l'esistenza di questo virus è da malati di mente. Allora, sì, che poi sia stato mandato dagli alieni, che ci sia un gruppo di pezzi di merda che vogliono sterminare metà della popolazione, io posso credere a tutto, sono tutte teorie senza fondamento, però ci posso credere. Ma il fatto di negare che esista questo, mi ha detto: ma tu hai perso l'olfatto e il gusto perché nella tua testa, sì, come la mia testa, ti sei autoconvinto. Sì. Meraviglioso, ragazzi. Io ho preso l'influenza, chiamiamola influenza, ho preso l'influenza e tra i vari sintomi ho avuto questo che ancora non ho recuperato. Ma non sono scemo che mi autoconvinco che non c'ho più l'olfatto e il gusto. Ma l'argomentazione era tosta. Sì. Per dirvene una, giusto prima di introdurre questo blocco che abbiamo chiamato il negazionista, dove sentirete, a parte Alisei, che mi ha fatto morire. Ogni tanto mi accaloro, caro collega. Sai che quel video l'avrò riguardato 100 volte. Merda, gli dici, pezzo di merda. Sì, bestia di merda, perché a volte sai. Allora, c'era un influencer, adesso ci sono questi influencer, no? Che diceva ai follower di partecipare alle feste a sembrarsi, ok? Sì. È morta questa ragazza, 23 anni, di Covid. Nel reparto di rianimazione di un ospedale di San Paolo. Questo per dirvi, perché lei diceva: facciamo le feste senza mascherine, non esiste il Covid. Brem, è andata. Quindi, per favore, inventatevi quello che volete, ci sta, io ci rido anche sopra e alcune cose le posso anche condividere. Ma non neghiamo l'esistenza di una roba che purtroppo sta causando un sacco di morti. Poi perché sia qua non lo sapremo probabilmente mai. Ci saranno 1000 teorie, magari una è vera e l'altra no. Oppure semplicemente una cazzo di influenza nata in Cina perché la gente là mangia la merda. Potrebbe essere, comunque, vabbè. Sentiamo il negazionista che cazzo ha avuto il coraggio di dire ieri. Prego, Pippo, andiamo. Lo Zoo di 105 presenta il negazionista. Nella testa del complottaro. Nella puntata di ieri abbiamo ricevuto alcuni messaggi WhatsApp da parte di complottisti e negazionisti del coronavirus. Leggete i messaggi, vi prego. Questo ma che dice screenshot, che... dai. Aspetta, che i tamponi sono farlocchi, non rilevano nulla, è stato ampiamente dimostrato. E quindi io che cazzo ho preso? Io cosa ho preso? Cioè, vorrei sapere, un'influenza normale. Aspetta, perfetto, è stato ampiamente dimostrato da chi? Da lui, da lui, da lui. Lui si infilava i tamponi nel culo e. Allora è cinese! È vero, è uscita la notizia. Per comprendere meglio i meccanismi che regolano il pensiero di questo tipo umano, sempre più diffuso soprattutto sui social network, abbiamo deciso di contattarne alcuni e provare ad interagire con loro. Il soggetto di oggi si chiama Fabio. Pronto? Ciao caro, è lo Zoo, sono Mazzoli. Uè, come vuoi? Scusavo, ho letto il tuo messaggio, volevo sentire un attimino se ci potevi ampiamente dimostrare che i tamponi sono farlocchi e non rilevano nulla. Evidentemente guarda, hai delle. Ci sono degli studi di medici, informati bene. Ma hai chi? Mai visto che fanno i tamponi ai kiwi, ai succhi di frutta? Hai mai visto i video? Quindi la domanda è: tu non credi che esista il Covid? Cioè non no, esiste? Non esiste. Ok, quindi quello che ho preso io, che cos'è? Boh. Il negazionista costruisce la propria teoria in base a notizie riportate su fonti alternative, spesso non verificate o citate marginalmente dagli organi di stampa. Il negazionista non le elabora criticamente le informazioni, ma si limita a conservare solo gli aspetti che rafforzano le sue convinzioni. Cioè, se tu sei positivo a un tampone farlocco, ma lascia stare. Non vuol dire che hai il Covid. Se il tampone fasullo, tu cosa hai preso? No, ragiona un attimo. Scusa, Fabio, Fabio, ti faccio un esempio io. Allora, dai, dimmi, perché se io ti dico che il virus non esiste. Ma tu l'hai mai fatto un tampone? Assolutamente no. No, sai come, però sai come funziona? No, non lo so. Allora, prendono uno stecchetto. te lo infilano nel naso, nelle mucose, sì, del naso. Vabbè, quello lo so. Ok. E poi lo mettono in un reagente, giusto? Il reagente reagisce in base alla destinazione del tampone, che sono le sostanze trovate nelle mucose del naso, della gola degli esseri umani. Se tu lo infili in un serbatoio pieno di diesel, non avrai un risultato attendibile. Ok, perché perfetto, il tampone, guarda, non, perfetto, è, non è finalizzato al diesel. Guarda, è un esempio che è fantastico. Allora, come dici tu, io metto il tampone nel diesel e mi dovrebbe dar sempre positivo. Come mai alle volte da positivo alle ma volte perché non è fatto per andare nel diesel? Perché non è fatto per essere immerso nel diesel? Perché non è fatto per essere messo nel diesel? Per sostenere le proprie teorie, il negazionista associa informazioni diverse tra loro, distorcendo il rapporto di causa-effetto. Ad esempio, il Covid è in realtà un'influenza stagionale, perché quest'anno nessuno è morto di influenza stagionale. Grazie alla mascherina è scomparsa, andebellato. Sti fenomeni, cosa mai successa nella storia, l'influenza stagionale, non c'è più un caso di influenza stagionale. Beh, ovvio, hanno tutti la mascherina, sì, si vabbè, disinfettano anche le mani. Però sì, vabbè. Invece circola e aumentano i casi. No, ragiona su sta cosa qui, mister cervellone. Perché non ci sono gli anticorpi per il Covid, è per quello che circola, bestia bastarda. Ma non ci sono gli anticorpi, animale. Scusami un attimo una cosa. No, ma scusami tu. L'influenza stagionale è possibile che venga debellata da una mascherina, da una pezza di culo in ma sulla scusa, faccia? Ma Fabio, non è solo la mascherina, è uno. Abbiamo fatto 3 mesi di lockdown in primavera e 4 mesi di lockdown in autunno. È per quello che non c'è più l'influenza. Che la gente lavora da casa. Mi spieghi perché non c'è più l'influenza stagionale? Dimmi. Ancora! Ma perché sono tutti. Rispondi. Ma perché non esce nessuno di casa e danno tutti la mascherina? Okay, scusa, okay, però. Non è che hai ragione perché non fai parlare gli altri. Alla base del pensiero negazionista ci sono spesso fake news che il negazionista non si preoccupa di verificare. Per proteggere la sua visione, il negazionista ribalta l'onere della prova, cioè impone al suo interlocutore di dimostrare che la sua teoria è falsa, invece che dimostrare egli stesso che è vera. Mi spieghi per quale motivo l'ISS, Istituto Sanitario Statale? No. L'Istituto Statale Sanitario? No, vabbè, non so. Istituto Superiore di Sanità, cazzo, ma non sei neanche le basi. Come mai non ha accertato, non ha convalidato ancora una sola morte per coronavirus? Ma cosa dici? Ma dove vivi tu? Informati dove? Aspetta un attimo, allora non sono morti certificati per coronavirus. No. Sono morti positivi a un tampone farlocco per coronavirus. Ma cosa farlocco? Sì, farlocco, e te lo ripeto ancora, il virus non è stato ancora isolato. Quindi come hanno fatto a fare il vaccino? Dimmelo te. No, perché prendono pezzi. Informati, ti informi e poi dopo. Ma no, ma guarda dove? Ma guarda, scusa Fabio, guarda che sull'Istituto Superiore di Fabio. E ti informi, vai a controllare quanti morti certificati ci sono per coglionaro virus e poi ti accorgerai. E sono 450 ogni giorno, di purtroppo. Di sto cazzo, ok? Posto di fronte alla palese mancanza di prove a sostegno della propria teoria, il negazionista reagisce in modi diversi. Cambia discorso, alza la voce o mette in dubbio la veridicità di tutta la comunicazione ufficiale. Sono andato sulla pagina dell'Istituto Superiore di Sanità www.iss.it. C'è scritto come si calcola la mortalità associata, indicazioni per la compilazione delle morti da coronavirus. Morti convalidati per. Esatto, dall'Istat. Allora l'avranno aggiornato. Dopo no, andrò a vedere. Testa di merda! 16 aprile 2020, asino del cazzo! Bravo. C'era già il modulo per la compilazione il 16 aprile 2020. Tu neghi le idee. Tu sei talmente irresponsabile. Certo. Sì, va bene. Me lo segnerò. Hai fatto un'accusa che è stata smentita adesso, cioè, davanti accusa, ai miei occhi. Quale accusa? Quella che non ci sono i certificati dei morti sul sito iss.it. Io rimango della mia idea. Ma scusa, abbi pazienza, ma questo qui è il Papa che guarda nel cannocchiale di Galileo e non vede la Luna. Questo documento di cui parli, dov'è? Dove si trova? Dimmi dove lo trovo. È sull'Istituto Superiore di Sanità. Non c'è. Sull'Istituto Superiore c'è un documento per i morti da compilare, per i morti da coronavirus. Quello che dici tu non c'è, dov'è? Vabbè, devi cercare, adesso non non ti ricordi. Sì, no. Io, allora, scusa, quello che dico io si trova appena entrati. Quello che dici tu non ti ricordi, non sai. Spesso il negazionista esce dal proprio campo di incompetenza e diventa seguace di teorie del complotto mondiale, mescolando il piano economico, storico e politico. Quindi poi qual è la tua teoria? Le teorie possono essere tante, c'è chi pensa che vogliono spoltire la popolazione, c'è chi pensa che vogliono solo azzerare l'economia perché hanno stampato troppi soldi, visto che a capo ci sono quelli che i banchieri che possono stampare moneta. Ma cosa stai dicendo? Ne hanno stampati teorie, ancora di più adesso, asino, non sai niente neanche di economia. Gli Stati Uniti hanno fatto altri 1900 miliardi di dollari di debito, hanno messo altri 2000 miliardi di dollari, idiota. Voi rimanete con le vostre idee. A quanto sei bestia. E io, dimmi te, tu pensi, non so, tu che idea ti saresti fatto? Che sei un coglione. Fatti un tampone contro la coglionaggine perché sei positivo. L'arma più efficace contro il negazionista è, come sempre, l'ironia. Ma attenzione, perché il vero negazionista non è in grado di coglierla e attenderà che prima o poi emergano degli elementi che gli danno ragione, magari per tutta la vita. Oh, stai attento che c'è una pericolosa tigre dai denti a sciabola nel tuo giardino. È spuntata nelle mattonelle. L'ho vista io, dimostrami che non c'è. Dimostrami che non c'è una tigre dei denti a sciabola nel tuo giardino. Sì, va bene. Devi dimostrarmi che non c'è. Comunque io non ho problemi, perché tanto prima o poi le cose verranno fuori. State tranquilli. State tranquilli, poi dopo ci risentiremo. Sì, va bene. Andate Nostradamus. Tranquilli. In bocca al lupo. No, anche voi. In bocca alla tigre dei denti a sciabola, che mi devi dimostrare che non ti sta. Mamma mia. Sì. Prima o poi lo sapremo che ha ammazzato Kennedy. Sì. Ma io lo continuo a dire, cioè, se tu credi in qualcosa, devi dimostrarla, però, sì, altrimenti, cioè, non puoi così buttare le robe, ma l'ho letta, non mi ricordo dove. Bello che arriva, dopo anni di ascolto dello Zoo, vi abbandono. Sì, vi abbandono. Vi permettete di trattare argomenti di cui non sapete un cazzo? È arrivato il dottore con un'arroganza indecorosa. Ma vattene a fanculo, vai. No, la donna per di più. Aburiona. Buriona. Ma dai, ma scusa, ma come fai? È indifendibile questo qua. Cioè, se tu hai una teoria, devi almeno poterla sostenere. Poi, ragazzi, questi erano 6 minuti di 23 di telefonata. Cioè, non erano le cose più assurde, ne abbiamo scelte alcune che erano funzionali alla chiacchiera, ma cioè, ce n'erano veramente di assurde, ragazzi. E ripeto, io sicuramente tra tutti i componenti dello zoo sono quello che probabilmente crede più nel complotto. Però non può, cioè, così è troppo. Cioè, così è troppo. Poi sicuramente ci sarà dietro qualcosa, sicuramente. No, in realtà hanno analizzato tranquillamente l'RNA di cui fa parte, che è alla base della composizione del coronavirus e deriva dai pipistrelli, cioè è abbastanza. Quindi è colpa di quel merda di Batman, bruciamo Bruce Wayne. La scienza l'ha fatto bene ad ammazzargli i genitori. La scienza l'ha dimostrato 8 mesi fa da dove arriva.